capito il re del rock and roll Elvis Presley, tanto bravo, tanto bello, tanto carino, mazzozzone! Ma tanto sporchino, non me l'aspettavo! Questa è la curiosità che scopriamo grazie al test attitudinale di quest'oggi, attraverso il quale salta fuori che Elvis Presley non amava particolarmente lavarsi. Ma aspettiamo a giudicare, magari ha avuto un trauma. Da piccolo è caduto in un fiume e ha rischiato di annegare, odiava l'acqua. L'ipotesi A, intanto so che ipotizzava che Priscilla Presley, la moglie, rifornì Graceland di salviette igieniche per far sì che Elvis si lavasse ogni tanto. È la risposta? Non so se già esistevano a quel tempo le salviette igieniche, comunque la risposta non è esatta. E allora forse Priscilla comprò un'intera partita di deodoranti per profumare la casa? Nemmeno questo è giusto. E allora andiamo a scoprire che la povera, bella e brava Priscilla Presley dovette costruire una doccia speciale a Graceland con 3 spruzzatori, uno per la testa, uno per il torace e uno per le estremità inferiori, per far sì che Elvis in qualche modo si lavasse. E neanche questa è esatta. No, adesso come se la cava? La ciegola giusta, ce l'ho segnata qua. Volevo metterla in imbarazzo. Dunque l'ipotesi terza era quella giusta. Dovette questa povera donna montare una doccia speciale. Sì, esatto. Ma guardi che i grandi del rock sono ben strani. Sì. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Oh, well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. Yeah. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. Oh yeah. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My inside shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine that she touch my hand. And what the chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. Oh yeah. I'm all shook up. Mm-hmm. I'm all shook up. Elvis Presley. Yeah. Ultima mezz'ora di pane, burro e rock and roll, puntata 189, che inizia alla stragrande. Segnalazione da Firenze. Ieri sera è uscito l'estratto sulla ruota di Napoli, il 42. Grazie Shurakarla, non si dica che siamo dei baluba. Hai ragione Spitti, grande Carla. Velocemente un saluto anche a questo che scrive: ma voi leggete solo gli sms che vi tira il culo a voi? Boh, ne arrivano tanti, sì, leggiamo quelli che ci stuzzicano di più. Ho cercato dal tuo numero se ne hai scritti altri, ma non ho capito cosa avevi scritto. Riprovaci. E a proposito di sms che interessano a me, ne leggo uno anonimo. Ho con me la roba, marzapane. Posso salire verso le 8:40? Ti aspetto. Sono le 8, mancano 6 minuti, sono qui. Questa è pane, burro e rock and roll. Grande Carla! Applausi! È uscito l'estratto! Since you've been gone, since you've been gone. to me. Of Vingan Rainbow. Occupiamoci di sport, uno sport di nicchia. Ciao Rosy. Ciao a tutti. Vi ricorderete di lei per meravigliosi uomini nudi sventolati alla radio per alzare gli ascolti. Però da settimana scorsa, insomma, abbiamo deciso di occuparci di rugby, che è uno sport di nicchia. Molto di nicchia. Lei è la nostra inviata speciale, cioè le altre radio hanno gli inviati speciali, perché non ce li dobbiamo avere anche noi? No, dico, tu devi dire sì. Sì? Sì. Tra l'altro non vedevi l'ora di toglierti la patata bollente degli uomini nudi, che ti tornerà in mano subito dopo il Sei Nazioni. Va bene. Quanto va bene. Dura sto Sei Nazioni? Sono sei settimane, quindi... No, che palle, tantissimo! No, ma finisce il 22 di marzo, mi sembra, così a memoria. Ma è un mese intero! Vabbè. Vabbè, ma ci sono ancora calendari, se vuoi, eh? No, ho capito, però qua facciamo le cose serie, si è passato... C'è anche il calendario misto. Cioè? La squadra di Monza ha fatto per quest'anno il calendario maschietti e femminucci assieme. Vedi che staccano vista, Rosy, non riesce a non comunque occuparsi della sua rubrica di riferimento. Occupiamoci di rugby, come sappiamo fare noi di Pane, Burro e Rock and Roll. Si gioca con una palla ovale. Ci sono dei maschi mezzi vestiti che si legnano di botte. No, non si legnano di botte. Sì, hai ragione. Non si legnano di botte. Molto meno che in altri sport. In altri sport. È presente l'hockey? Ecco. Sì, bello l'hockey. Dovremmo fare anche qualche collegamento con l'hockey. Se vuoi. Quindi cosa succede? L'ultima volta, cioè, ci siamo sentiti una settimana fa, non è successo niente? No, perché c'è stata la partita di Coppa Italia, però questa di domani contro il Galles e il Sei Nazioni. Ok. Infatti domani siete a guardare alle 4, Galles Italia. Dove la fanno vedere? Sulla 7? Sulla 7, esatto. Che è il canale ufficiale. Del torneo di rugby Sei Nazioni. Mentre la radio ufficiale è R101? Sì. Ciao ragazzi di R101, mitici! Tra l'altro il loro inviato è Troncon, che comunque fa anche da preparatore alla nazionale. Domani vorrei sapere come fa a telefonare e a far tutto, insomma, se è lì alla partita. Ah, beh, dovremmo sguinzagliare il nostro amico che ascolta la concorrenza, da come se la cavano. Dovremmo chiedere a loro come fanno. Allora, Andrea 147, devi sentirti R101 tutto il giorno. No, a che ora la faranno, non lo sappiamo. Alla una, mi pare. Intanto mi suona in diretta alla porta, deve essere arrivato quello col marzapane. Ma questa è una... Questo per farti sapere che non vengo a aprire l'ascensore perché sono in diretta. Quindi deve restare lì un po'. Quindi la partita domani, hai detto? Galles Italia. Italia, come siamo messi? Ci saccagnano. Non è detto. Non è detto. Ho visto la formazione dell'Italia molto rimaneggiata. Devo andare sul tecnico. Vai, certo, caspita. Abbiamo due piloni. Eccola lì. Che sono i due ai lati della mischia, che sono abbastanza forti, ma ne abbiamo uno solo di riserva, quindi se se ne ciocca uno siamo rovinati. Ok, quindi dite incrociate sui piloni. Sì, su tutto, perché tutto quanto un attimino, siamo una nazionale un po' così allo sbaraglio. Beh, però finora stiamo andando bene, anche se stiamo perdendo, ma stiamo giocando bene. Ci sentiamo lunedì che ci fai sapere com'è andata. Speriamo allora. In bene. Mi scrivono anche che, visto che è uscito l'estratto di Carla, in teoria dovevamo dare dei numeri nuovi. Non per togliere il lavoro a Carla, ma ti vengono in mente due numeri a caso, tipo i due piloni, sai che numeri hanno? Sì, 1 e 3 però. 1 e 3, no, secondo me giochiamocela così a caso. Tanto la trasmissione, perché adesso dobbiamo fare i Beatles in italiano, quelle robe lì. Se non sentiamo Carla entro le 9, 1 e 3. No. No, non va bene. Ma non sì. Lo so. Sono... Sulla ruota di dove sono quelli lì? Pessima domanda. Pessima no, domanda. Siciliano, quindi sulla ruota di Palermo. Palermo, 1 e 3 Palermo. Ciao Rosy, 2 in 1. Ah, regà, adesso ci sono i Beatles in italiano. Vedo di rintracciare Carla al massimo in fuori onda e ve li do. I numeri, diciamo. Beatles in italiano, tra poco! I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. I'm just mad about 14. A 14's mad about me. Parecchio tempo che non ci occupavamo di una cosa, caro Freco, una domanda. Quale? E se i Beatles, anziché nascere a Liverpool, fossero nati a Venegono Inferiore? Se fossero nati a San Lazzaro di Savena? Al posto che a Liverpool, avrebbero comunque scritto delle gran belle canzoni oppure no? Ma chi lo sa, certamente avrebbero avuto qualcosa di differente, di diverso. Sicuramente il White Album probabilmente si sarebbe chiamato il disco bianco. Sì, sì, sì, sicuramente Rubber Soul, anima di gomma. Esatto, no, ma io resterei sul disco bianco. Perché sì, vogliamo brano... riflettere su questo White Album? Vogliamo proprio cantarla, una canzone dei Beatles in italiano, se ne sentiva la mancanza. Una buona giornata al nostro stagista Isaac Rizzi, che imbraccia la sua sei corde. Tutto bene? Sì, sì, bene. George Harrison de Noi Ardi. Beh, certo, ma lui è un grande appassionato dei Beatles. Lei come chi fa, McCartney o fa Lennon? Beh, io... la canzone in questione, Back in the USSR, se non ricordo male, la faceva McCartney. Allora farò McCartney in questo caso. Mi piace però sperimentare nuove strade, perché i Beatles alla lettera l'hanno fatto in tanti, bravissimi. Ma no, ma i Beatles bravissimi proprio no. Ma lo so, ma l'importante è essere originali. I Beatles in italiano, eccoci pronti, facciamo Back in the USSR. Sì, ma fedeli, è traduzione alla lettera. Voglio fedeltà al testo originale. Quindi di ritorno dall'URSS. Di ritorno dall'URSS. Maestro, noi siamo pronti, ci dia solo il 4. Allora, siete pronti davvero? Sì. Poi glielo ridò io, vado. 1, 2, 3, 4. Letto stanotte, il modo in cui il pacco di carta era sulle mie ginocchia, uomo, ho avuto una nottata orribile, di ritorno nell'URSS, non sai la fortuna che hai ragazzo, di ritorno nell'URSS, sono stato via così a lungo che riconoscevo malapena il posto, caspita è bello tornare a casa. Lo lascio fino a domani per disfare le valigie, cara dai, stacca il telefono, di ritorno dall'URSS, non sai la fortuna che hai ragazzo, di ritorno, di ritorno, di ritorno nell'URSS. Così la vita. sembra che ormai non vi stupisca più niente. Di solito ci ammazzate quando facciamo i Beatles in italiano. Scusate, sto mangiando un marzapane, no? Grazie alla mamma di Dami. Certo, mi è capitato. Scusate, mando giù un attimo. Che pessimo. Mi è capitato di sentire Linus su Radio DJ una mattina e si lamentava, diceva: no, ma noi non riusciamo a mantenere la linea perché i radioascoltatori continuano a spedirci roba da mangiare. Amici ed amiche che spedite le robe a Radio DJ, non mandatele perché tanto non le vogliono, giratele a noi di Rock FM. Quindi se conoscete qualcuno che ascolta assiduamente Radio DJ, diteglielo. Se vuoi non ascoltare pane, burro e rock and roll, però spedisci la roba, anziché spedirla a Linus, speditela a Daria la Freak, che loro apprezzano. C'è dramma catastrofico per sta storia dei numeri, lasciatemi 3 minuti che rintraccio Carla. E intanto, visto che il momento è critico per Freak Antoni, abbiamo il collegamento con la Tele Antoni Market Shop. Non ne avete mai sentito parlare? È un canale televisivo, fa televendite di oggetti di Freak. Buongiorno Tele Antoni Market Shop, come posso aiutarla? Tele Antoni Market Shop, Tele Antoni Market Shop, Tele Antoni Market Shop, Tele Antoni Market Shop, Market Shop, Tele Antoni Market Shop. Prosegue la diretta fiume di quest'oggi, Tele Antoni Market Shop. Mi raccomando, non perdete l'occasione fenomenale di quest'oggi. Componete immediatamente il numero in sottopancia per il lotto 22. Queste meravigliose bretelle di Roberto Fricantoni per anni hanno retto i pantaloni di un maestro, di un poeta, di un signore, Roberto Fricantoni, le sue bretelle. Mio caro, quando le ha usate queste? Vedete, resistono anche a qualsiasi colpo fortissimo. Tengono i pantaloni. Sì, non hanno perso la loro... Non, alla meglio, non amici, hanno perso la loro all'ascolto, andate in qualsiasi merceria, ve le offriranno probabilmente a 30-35 euro, chiamate immediatamente, 12 euro per la diretta di quest'oggi, le bretelle che hanno sorretto i pantaloni di Roberto Fricantoni per anni, cosa dico, 15. Anni, decenni, 12 euro ma solo faccia, per... 15, teniamo il basso, 15. Teniamo il prezzo, come dico io, signor Antoni, ne ha bisogno. Sì, e allora 12 euro solo per voi quest'oggi. Guardate che oggetto di design, bretelle grigio topo che hanno retto con una fibietta in ottone, direi. Sì, è vero. Sentite ancora elastiche. Non posso fare un ultimo colpo, sì, ancora, veramente. Ancora ecco, elastiche. Ragazzi, ragazzi, dalla regia c'è in linea la signora Maria che vorrebbe rivedere l'otto numero 20. Ottimo, ottimo, signora Maria, il lotto 20, fatemelo ritrovare. Eccola, la penna stilografica, la biro, più che penna stilografica, con la quale il signor Antoni ha scritto pagine. Di storia, di poesia, di letteratura, la penna che in qualsiasi cartoleria potreste trovare forse a 5, ma che cosa dico, 8 euro, quest'oggi alla signora Maria, se conferma l'acquisto la diamo a 2,50 euro, no, l'ho detto, offerta pazza, solo se chiama in questo momento, ma 2,50 euro per la biro di Roberto Fricantoni. Guardi DJ Ariele, guardi, lei gioca troppo, lei me li motiva, bravissimo, ma gioca troppo a ribasso. 2,50 euro. Guardi che questa è una pseudo Mont Blanc. Fantastico, una pseudo una Mont Blanc. Finta immaginate Mont Blanc. La figura che potrebbe fare questo oggetto di design sopra la vostra scrivania, senza star qui a ricordare le cose che può aver scritto questa biro. Certo. E vi ricordo anche che volendo dovessero rubarvela, potreste pensare, mi hanno rubato una Mont Blanc, e invece no, perché l'ho pagata. 2,50 euro solo per quest'oggi all'offerta della Tele Antoni Market Shop. 5 euro no. No, 2,50 euro per la signora Maria, ha confermato. Regia la signora Maria? No, non ha confermato. In compenso però c'è in linea una certa Lara della lavanderia di Casalecchio di Reno, Lara come lava, che rivendica il pagamento di un conto di 1.500 euro. Allora, per favore, regia, abbiamo già spiegato che i problemi personali di Roberto Fricantoni non ci interessano. Siamo qui per vendere grandi oggetti d'arte, non per queste boiate. La difenderò sempre, signor Antoni. Molto giusto, DJ Ariele, la trovo compresa nel ruolo. Market Shop, Tele Antoni, Market Shop. E che c'è? This is only forever. It's now or never. Get your kicks on high and on. Gli accidenti accadono. Accidents will happen. Elvis Costello. Siamo in super ritardo per la chiusura di quest'oggi, puntata 189. Per gli appuntamenti del weekend mi trovate stasera al Garage di Sesto San Giovanni a mettere un po' di dischi dopo il concerto dell'Invasione degli Omini Verdi, e domani con Max De Riu all'Auditorium Flog a Firenze, Collina del Poggetto. È finita la puntata, ma continua il panico degli ascoltatori che non sanno cosa giocare questo weekend. Ciao Carla! Ciao! Aspetta che lancio la sigla, perché è finito il programma. Bene. Ma ce li hai i numeri? Certo! Grande! State lì ragazzi, carta e penna, che abbiamo i numeri nuovi per il weekend. Che soddisfazione. Burro e rock and roll. Abbiamo beccato il 42. L'hanno giocato? Sì, sì, sì, un paio l'hanno beccato, Carla. Pane, burro e rock and roll. Perché la sciura Carla ce li aveva già pronti i numeri, eh? Eh sì, io ce li ho sempre pronti. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare, pensa che fortuna. Sì, sì, sentiamo la sigla e andiamo, Carla, aspetta. Buongiorno, la mattina ascolta Rock FM. Intanto do anche, dai anche tu il buongiorno a Garavelli che è qua con noi. Buongiorno signor Garavelli. Aspetta che c'è il microfono spento. Grazie signora Carla. Allora, prego, prego. Carta e penna, vai. Carta con e penna. Vai. Sì. Ce li abbiamo. Cagliari Roma. Cagliari Roma, caro. L'estratto 55. Ok. Volete fare la posizione? Vi do anche la posizione. Cos'è? No, non iniziamo cose difficili, Carla, che siamo in ritardo. Senti, ma se te giochi un euro ne prendi 51. Allora facciamo la posizione. Ok. Terza posizione. Terza posizione. Ok. Allora, l'ambo è 55-1. Ok. Il terno, sì. 55, 19, 20. Questi numeri li gioco anch'io, dunque. Questo è diverso il metodo rispetto al solito. Bene, Carla. Bene. È diverso. Sì. Bene, bene. Ci sentiamo lunedì a vedere se sono. Però fai, dillo. 55, 19, ambo eterno, eh? Esatto, esatto. Come sempre. Come sempre. Però abbiamo anche la terza posizione. Grazie, Carla. È finito il programma. A lunedì. Ciao, Marco. Ciao a tutti. Si va avanti. Tiriamo avanti, sì. Fora Italia. Ciao. Ok, ciao. A lunedì prossimo. Ciao.